Musica Maestro di Armando Torno. Un cordiale saluto da Armando Torno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Oggi saremo in collegamento con Gaetano Sant'Angelo, l'inventore e direttore di Amadeus, una rivista di musica che gode di qualche record. È stata, diciamo così, inventata, ha cominciato a uscire 25 anni fa. 25 anni fa Gaetano Sant'Angelo la inventava con Claudio Casini, un musicologo che molti forse avranno letto, che conosceranno comunque di fama per una sua storia della musica, per le sue ricerche su numerosi musicisti. E pensate, nel novembre scorso è uscito il 300° numero, nel dicembre ha compiuto i 25 anni e adesso in questo gennaio c'è stato un restyling della rivista. E allora abbiamo pensato di chiamare Gaetano Sant'Angelo, nostra vecchia conoscenza tra l'altro, che diffonde questa rivista allegando sempre dei dischi e coinvolgendo sempre decine di musicologi, di musicisti, di appassionati, di interessati. Insomma, il suo è stato un lavoro lungo un quarto di secolo per la musica. Buonasera Gaetano Sant'Angelo. Buonasera a voi. La presentazione spero che sia stata corretta, perché è un po' difficile presentare lei questo miracolo di Amadeus, che penso sia dedicato come titolo di rivista Mozart, no? Beh, è inevitabile, è un titolo che poi riassume un po', diciamo, l'essenza della musica. Amadeus, il grande compositore, quello che, insomma, in cui tutti i musicisti si riconoscono come uno delle nostre guide, se vogliamo, e quindi inevitabilmente il nome è stato inventato, diciamo, suggerito da Claudio Casini. Ma è inevitabile ripensare al film di Forman, certo, no? Certo, che aveva avuto qualche anno prima un enorme successo e fece conoscere Mozart anche a tutti coloro che magari non l'avevano mai ascoltato. Ecco, lei nel numero di Amadeus ha inserito, dico lei, ma voi di Amadeus, lei sì, è il direttore, quindi do la colpa a lei, insomma, il merito. Avete inserito l'ultimo disco, che è di Aleksandr Scriabin, sì, è un disco dedicato al pianoforte con Roberto Plano, è una registrazione inedita come molte che fate voi, no? Sì, diciamo, noi negli ultimi anni, ma molti anni ormai, diamo ai nostri lettori una registrazione inedita, quindi anche quella di Harding con la Filarmonica della Scala è stata pubblicata con Amadeus per la prima volta, mi riferisco al numero di gennaio. Sì. Anche questa è stata, questa di Scriabin con Plano, è stata registrata appositamente per Amadeus, e poi non è detto che non veda anche la strada, il percorso dei dischi tradizionali, ma i nostri lettori ce l'hanno, diciamo così, in anteprima. Avete insomma il merito di diffondere la musica, di scoprire magari degli interpreti, dei talenti, oppure di riconfermare quelli che già si conoscono, e ovviamente di accompagnare il lettore sempre con un ascolto mensile. E questo sì, non è cosa da poco, insomma, in un paese che è la patria della musica ma poi la trascura nei programmi scolastici, la maltratta magari nelle biblioteche, eccetera eccetera, insomma. Questo è un dramma che ci portiamo ormai da moltissimi. Ci può parlare allora brevemente magari di questo Roberto Plano, di questo disco di Scriabin? Che cosa, lei ama Scriabin, tra l'altro? Beh, sì, certo. Lei ama molto il Novecento, so, quindi. Amo molto il Novecento. Avevate anche cercato di fare un Amadeus Novecento, ma ne uscì solo un numero. È una storia abbastanza curiosa, perché abbiamo fatto il primo numero, che è stato anche l'ultimo, a causa dei costi troppo alti per SIAE, per noleggi di partiture, eccetera. C'è un meccanismo nei confronti della musica, diciamo, contemporanea, ma che comunque poi contemporanea non è, piuttosto farraginoso, che ci impedisce di affrontare questi temi. Allora dobbiamo stare attenti a quando è morto il compositore, per evitare di incorrere in questi problemi, perché io poi mi sono accorto che un direttore responsabile di una rivista non è responsabile solo di quello che si pubblica, ma anche di quanto costa, e questo è un po' un problema. Ecco, brevemente su Roberto Plano, questo interprete. Dunque, Roberto Plano, l'ho conosciuto perché insomma, così frequentando i concerti, il conservatorio, eccetera, è un musicista che giovane, ma che comunque ha già, insomma, nel suo circuito internazionale di concerti, spesso in America, ha vinto premi prestigiosi, e è particolarmente interessato a questo tipo di repertorio. Quindi, avendolo sentito proprio su questo compositore, ho detto, per me lui è il nostro interprete ideale di Scriabin, perché mi piace anche far conoscere musicisti giovani che meritano di essere proposti anche attraverso le pagine della nostra rivista, che comunque ha un seguito abbastanza importante. Sì, tra l'altro voi vendete molto bene come rivista, e devo dire, sul numero di Amadeus, Roberto Plano proprio troneggia in primo piano, ecco, il numero, adesso non vorrei commettere un errore, ma mi pare fosse il numero 303 del febbraio 2015. 303, sì, è quello, ecco, che è in edicola in questi giorni. In questi giorni, ecco, io ricordo appunto che questa rivista, tra l'altro, che offre in questo caso appunto il disco, costa 11 euro, no? Questo sì, è il nuovo, esatto. È il nuovo costo, o era già così? No, era già così in passato, speriamo di poterlo mantenere, insomma, anche in futuro. Ecco. Insomma, Sant'Angelo, non dobbiamo certamente disperare da questo punto di vista, no? Ma insomma, disperare non conviene, anche se forse qualche volta sarebbe necessario. Forse magari per vedere se riusciamo a muovere qualche personaggio illustre che prima o poi pensi anche che esiste un mondo della cultura, e nel mondo della cultura c'è anche la musica. Diciamo che la lotta è effettivamente abbastanza difficile, perché in tutti questi anni non abbiamo visto grandi progressi. C'è stato qualcosa, qualche intenzione favorevole a promuovere la musica, ma non più di tanto, ecco. Noi ci stiamo occupando di musica e teniamo duro. Ecco, voi quante copie vendete? Lo so che è una brutta domanda, ma diciamolo. Dunque, pure. Noi siamo tra abbonati e edicola intorno ai 10.000. Beh, che è un bel numero, perché... Quindi... con alti e bassi a seconda del disco proposto, però diciamo che ormai si è abbastanza stabilizzato. Sì, è un bel numero, è un numero interessante, che facciamo però fatica a mantenere, perché è chiaro che stiamo subendo una crisi dovuta al mondo dell'editoria e un problema posto da internet. Ecco, perché internet chiaramente diffonde molta musica gratuitamente. E siamo stati costretti a farlo anche noi, tant'è vero che Amadeus non offre solo il disco di copertina, quello allegato fisicamente alla rivista, ma offre ai lettori anche la possibilità di scaricare in download, come si dice adesso, una registrazione, anche quella inedita, quindi un secondo CD. E tutto questo gratuitamente. Ecco, Sant'Angelo, avete fatto un restyling. Che cosa significa in termini semplici, proprio per un grande pubblico? Avete ridato un altro volto alla rivista? Sì, diciamo che la rivista è cambiata da un punto di vista dell'aspetto grafico, abbiamo dato più importanza anche alle immagini, senza però sacrificare il testo. Questo è stato una delle sfide. Abbiamo inserito nuove rubriche, rubriche anche che in pratica conducono il lettore in questo mondo che per alcuni è pressoché sconosciuto, che è la musica classica. Poi qualcuno che mi dirà che non si dice classica, però insomma, per intenderci, è quella lì. Abbiamo anche messo una rubrica di cucina. Forse nessuno ne sentiva il bisogno, però insomma, abbiamo trovato un esperto, che è Ambrogio Maestri, che è un famoso Falstaff, uno dei più famosi a livello internazionale, che ogni mese ci suggerisce una ricetta tra le molte cose nuove che abbiamo inserito nel giornale. Ecco, c'è il problema poi di abbinare molte volte la musica con il cibo, che è un problema. Quello non, al momento non l'abbiamo affrontato perché mi sembra che ci sia sempre qualche forzatura. Diciamo che nella rubrica di maestri si pensa più al cibo che alla musica, e però insomma la cosa potrebbe anche diventare sfiziosa, cercare degli abbinamenti. So che molto spesso si trovano, basta pensare a Rossini, basta pensare ai Brindisi del mondo del melodramma. Certo, basta pensare a Pavarotti quando mangiava dopo gli spettacoli. Io l'ho visto mangiare una sera a Bologna dopo un Rigoletto, insomma non era uno spettacolo semplice, era pantagruelico, ecco. Cioè. Beh, comunque, al di là di questo, nel numero 300 della rivista voi avete messo un'antologia di Amadeus, due dischi che si chiudono con una ninna nanna agli eroi. Guardi, io devo dire che leggendo pensavo, credevo che fosse di Debussy, poi in realtà è un anonimo con un arrangiamento, con una revisione di Paolo Ugoletti. Sì, sì. È una banda giovanile friulana con Marco Somadossi che la dirige, Luca Fanfoni al violino e Marco Pierbon alla tromba. E questa è una cosa curiosa, perché abbiamo preso questa banda giovanile, appunto, che diretta da Somadossi, a cui abbiamo abbinato anche importanti esecutori come appunto Fanfoni e altri, e hanno suonato insieme. Questa è una banda di ragazzi, ma insomma hanno dimostrato di saperci fare. Ecco, ma questa Ninna Nanna agli eroi è stata, diciamo così, pubblicata, registrata in occasione dell'Unità d'Italia. Sì, insomma, del 150° dell'anniversario dell'Unità d'Italia. Sì. E quindi è una musica patriottica. In un certo senso. Ecco. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno dai microfoni di Radio 24. Questa sera abbiamo in collegamento con noi Gaetano Sant'Angelo, direttore di Amadeus, una rivista di musica tra le più prestigiose, che tra l'altro ha raggiunto ormai il 303° numero, e abbiamo ascoltato musiche sempre tratte appunto dalle pubblicazioni quasi sempre inedite di Amadeus. Ricordo che questa rivista ha compiuto 25 anni a dicembre. Da gennaio ha avuto un restyling grafico e ora appunto abbiamo anche già presentato il numero di febbraio, che proponeva un disco di Scriabin. Ecco, però quella Ninna Nanna degli eroi l'abbiamo dovuta poi chiudere così, perché era abbastanza lunghetta per i nostri tempi, però un commento del direttore ci vuole, perché c'erano dei giovani, c'era la patria, c'era l'Italia, c'erano tante cose, abbiamo un nuovo Presidente della Repubblica, quindi facciamo onore a cui piace la musica classica, ecco, tra l'altro. Quindi... Beh, insomma, sì. È stata un'operazione molto complessa quella, ci ha portato via un notevole impegno, e devo dire che questi ragazzi sono stati veramente eccezionali, perché hanno prestato tutta la loro capacità e collaborazione. Quando abbiamo pubblicato questo disco ci hanno anche ringraziato mandando una frase che gira così nel mondo della musica, che dice esattamente: chi educa alla musica prepara un artista ad affrontare il pubblico, chi educa con la musica prepara un uomo ad affrontare la vita. Mi è sembrata molto bella, tant'è che l'abbiamo messa poi nel numero di gennaio della rivista. Ecco, senta Sant'Angelo, la vostra rivista mi ha detto vende circa 10.000 copie. Sì, siamo intorno a quel... Ecco, con 11 un euro... Un po' meno, ma la nostra ambizione è di arrivarci. Insomma. Ecco, diciamo che siamo intorno a quelle cifre. Sì. 11 euro, però ogni settimana, cioè ogni mese, scusi, ogni mese, perché siete mensili, voi date dei dischi reali, concreti, con un cofanetto, eccetera, e poi ne permettete di scaricare un altro. Un altro da scaricare. E questo abbiamo pensato di farlo anche considerando che i giovani, particolarmente i giovani, sono i più abili manovratori dei computer, e quindi speriamo che attraverso questo meccanismo magari arrivi la musica anche a loro. Magari abbiamo detto un nonno che non sa come scaricarla, si fa aiutare dal nipote, e quindi possiamo contrabbandare la musica anche in questo modo. Certo. Facendo una scelta particolare, diciamo che nel download noi mettiamo i brani più facili all'ascolto per chi non è abituato all'ascolto della musica classica, e quindi lì trovano anche la possibilità di un avvicinamento alla musica graduale. Ecco, senta Sant'Angelo, avete passato diverse proprietà, mi sembra, perché un tempo eravate legati al gruppo dell'RCS, poi ora siete passati forse ad altri riferimenti. Questo lo diciamo agli ascoltatori? Sì, beh, certo, lo diciamo, perché le varie vicende che hanno fatto passare il testata Amadeus da una proprietà all'altra sono tutto sommato un breve percorso che riguarda la storia della rivista. Da De Agostini Rizzoli Periodici siamo passati a Paragon, che è l'editore che negli ultimi 7 anni ha condotto la rivista, e a causa delle vicende economiche che hanno stravolto un po' il nostro paese, siamo stati sull'orlo della chiusura, ma fortunatamente una società finanziaria molto importante, che è Europa Investimenti, ha pensato che forse valeva la pena salvare Amadeus e tentare di dare una nuova vita alla rivista, cosa che è avvenuta, tanto che siamo riusciti a non saltare neanche un numero. Ecco, questo allora merita, diciamo così, un te deum di ringraziamento. Voi avete pubblicato con l'orchestra, il coro della Svizzera italiana, l'Ensemble Vanitas, questo Ensemble Vanitas fatto da due nomi, uno francese e uno latino, Vanitas Vanitatum, insomma, con Diego Fasolis, direttore, avete pubblicato il te deum di Dettingen di Handel. Handel, io lo confesso sempre agli ascoltatori, è uno dei musicisti che preferisco, ma mai riuscirò ad averlo integralmente, perché ha un catalogo sterminato. Nessuno osa fare un integrale di Handel. C'è di Bach, c'è di Mozart, c'è di Beethoven, c'è di Brahms, c'è di Chopin, c'è di Verdi, c'è di tutti, ma Handel è inarrivabile. Però io lo amo, e quindi lo confesso tranquillamente. Ora vorremmo semplicemente chiederle, caro direttore, come ci si fa ad abbonare ad Amadeus, e quanto costa un abbonamento ad Amadeus? Ci sono degli sconti, ci sono delle cose particolari? Certo, intanto abbonandosi si risparmia, perché se acquistando 12 numeri si spendono 132 euro, abbonandosi se ne spendono solo 99. Sono 12 numeri, quindi 12 CD più 12 riviste, considerando anche che poi esiste la possibilità di scaricare in download altri 12 titoli CD, diciamo, inediti, mi sembra un'offerta abbastanza vantaggiosa. Ecco, per abbonarsi poi basta andare sul sito di Amadeus, che è www.amadeusonline.net, ma si trova facilmente, e lì ci sono tutte le indicazioni per un abbonamento. In più, ovviamente, se uno compra la rivista, trova nella rivista le pagine dedicate agli abbonamenti. Ecco, poi chiama il cartaceo al cartaceo, poi c'è anche questo côté, diciamo così. La possibilità, sì, certo, ma anche la rivista può essere acquistata tutta in download attraverso una edicola che vende Amadeus e altri giornali in download. Ecco, quindi si può chiaramente anche procedere per via informatica. Sì, per via informatica globalmente, per cui uno può avere la rivista e i due CD per via informatica senza avere poi gli ingombri della carta, ma per noi ingombri non sono, come ne sappiamo, ma anche un piacere da spogliare, da guardare. A meno che uno non viva in un appartamentino di 25 metri quadri, allora che sono i nuovi così modelli di casa che vengono fatti. Senta, programmi per il futuro, qualche colpaccio che ci può rivelare? Solo uno, direttor Sant'Angelo, solo uno, magari un colpaccio, cosa state registrando? Abbiamo in ballo tante cose. Uno, per esempio, un requiem di Meyer per strumenti a fiato, per una banda. Bellissimo, io ritengo, e lo registreremo a breve. Sono tantissime le cose che abbiamo in programma. Abbiamo un disco dedicato a serenate di Elgar e altri compositori di quel periodo, quello è praticamente pronto, e il prossimo mese Sgambati, che è veramente un compositore da conoscere. Quindi una sinfonia di Sgambati e un concerto per pianoforte e orchestra, registrato con l'Orchestra Verdi di Milano. Bene, della quale abbiamo parlato tra l'altro nelle scorse settimane. Quali altri progetti magari avete che ci vuol rivelare? Dunque, progetti ne abbiamo molti in questo momento. Un altro Amadeus 900 no. Ecco, un altro Amadeus 900 sarebbe una bella risposta finalmente da dare. E mi piacerebbe moltissimo, perché dovremmo è un secolo tutto da scoprire, come certo. Lei ben sa. Ormai è passato il Novecento. È passato, non è più musica contemporanea, a parte che io ritengo che la musica contemporanea sia tutta contemporanea, perché nel momento in cui si suona, quella è la musica. Telemann in questo momento è stato un nostro contemporaneo che ci ha regalato un momento delizioso di musica. Quindi perché trascurare Telemann e trascurare anche tutti gli altri grandi compositori che sono lì ad attenderci e a proporci le loro opere? Quindi noi di Amadeus cercheremo di continuare questo percorso, cercheremo di arricchirlo sempre di più, sperando che i lettori ci seguano e sperando che anche i responsabili della cosa pubblica ci seguano nel capire finalmente che la musica, l'Italia, il paese che parla, che ha inventato il linguaggio della musica, e noi questo non possiamo ignorarlo.